Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. C'è sempre più Calabria e meno Sicilia, qua e là c'è molta Campania e sempre meno Cosa Nostra. Come in un grande risico mondiale, seguendo le tracce lasciate dalle varie indagini, si ricostruiscono gli schieramenti internazionali di tutte le mafie nostrane e si scopre così che in giro per il mondo gli uomini d'onore delle famiglie siciliane sono sempre di meno, mentre sempre più numerose sono le truppe delle 'ndrine calabresi o dei vari clan camorristici. E come in una ragnatela, passo dopo passo, Francesco Forgione, già presidente della Commissione Antimafia, ha ricostruito tutte le presenze del Made in Italy malavitoso esportato e ciò che viene fuori è una successione di vere e proprie mappe geocriminale, un atlante, il primo, di traffici di droga, latitanze, interessi e corruzioni. Soprattutto questo è Mafia Export, una sorta di mappamondo edito da Baldini Castoldi su come 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra abbiano colonizzato il mondo. Quello che emerge è una perdita di ruolo internazionale di Cosa Nostra. Cosa Nostra proprio negli anni dello stragismo ha perso, io credo, un ruolo internazionale che si è limitata ai rapporti con Cosa Nostra americana. Non a caso negli ultimi anni c'è un tentativo di riportare in Italia gli Inzerillo, i cosiddetti scappati, coloro che Riina aveva costretto all'esilio proprio per sottrarli alla morte certa, e c'è un tentativo di farli rientrare con il beneplacito di Bernardo Provenzano proprio per recuperare un ruolo internazionale che era andato perduto. Proprio in quegli anni invece si imponeva nella scena criminale mondiale una nuova mafia potentissima che è la 'Ndrangheta. Immetteva sul mercato globale due prodotti di qualità: uno, una grande disponibilità finanziaria, gli anni dei sequestri di persona, degli appalti pubblici gli avevano consentito di accumulare una massa di ricchezza che la 'Ndrangheta immetteva proprio negli anni 90 nel grande mercato della cocaina; secondo, un prodotto che Cosa Nostra non era più in grado di garantire, una mafia senza collaboratori di giustizia. E questo perché la 'Ndrangheta, a differenza di Cosa Nostra, costruisce la propria organizzazione sulla famiglia di sangue. Se un uomo della 'Ndrangheta si pente, deve denunciare suo fratello, suo padre, suo nipote. E noi, anche delineando queste mappe geocriminali, mentre individuiamo Cosa Nostra soltanto nel rapporto con le famiglie di Cosa Nostra americana, invece la 'Ndrangheta la troviamo distribuita in tutto il mondo, dalla Spagna alla Germania, al Canada, all'Australia, agli Stati Uniti. Stessa cosa che con caratteristiche diverse troviamo per la camorra, quindi siamo di fronte ad un mutamento di scenario. Quindi sempre meno Cosa Nostra, sempre più 'Ndrangheta e allo stesso tempo anche camorra. Quello che colpisce sfogliando queste mappe è vedere ad esempio anche alcuni stati impensati come il Senegal o il Togo. Questi stati sono stati che hanno delle democrazie deboli, hanno fenomeni di corruzioni estesissimi in tutti i campi della vita pubblica. I loro porti sono delle vere e proprie zone franche. In questi porti si incrociano le rotte della cocaina che arrivano sia dall'area magrebina e sahariana sia dal Sud America e dal Nord America, penso dai porti del Canada o addirittura dal sud dai porti dell'Australia. E questi porti sono dei porti franchi dai quali poi partono le rotte della cocaina che giungono in Europa. Quasi sempre la porta d'accesso è la Spagna oppure i porti del Belgio e dell'Olanda, Rotterdam e Anversa. E questi porti rappresentano oggi non solo dei luoghi di affari criminali, ma dei luoghi dove alcune famiglie mafiose italiane, soprattutto di 'Ndrangheta, in questo caso anche di Cosa Nostra, si sono insediati e hanno messo radici. Se è vero per appunto paesi con democrazie deboli come quelle di molti stati africani, però questa contaminazione è altrettanto accertata, come lei già accennava, anche in paesi europei dalla solida istituzione e dalla solida struttura democratica. Abbiamo citato la Spagna, abbiamo citato però anche l'Olanda ed è proprio in Olanda che, ad esempio, l'arresto di un avvocato stava creando un caso diplomatico per una vicenda legata a Catanzaro. Sì, qual è? Sì, in effetti nello studio del principale avvocato, il presidente delle Camere Penali olandesi, Leon Van Cliff, si incontravano colombiani, siciliani e calabresi per gestire partite di centinaia e centinaia di chili di cocaina. Ovviamente l'avvocato Van Cliff si è difeso dicendo che non sapeva che nel suo studio avvenivano queste cose, ma i militari del GOA di Catanzaro, intercettando le telefonate dei boss calabresi, trovavano come utenza di incrocio tra tutte le attività un numero di telefono del centro di Amsterdam, che era proprio quello dello studio legale del presidente della Camera Penale olandese, molto legato tra l'altro al casato reale. Questo ci dice di una ipocrisia che vive nei nostri paesi in Europa. Per esempio Duisburg, che ha segnato comunque uno spartiacque quella strage, lì non è che si portava una faida ancestrale che veniva trasferita dal ventre arcaico della Spromonte San Luca nel punto più alto dell'industrializzazione tedesca. Lì in effetti c'era uno scontro di interessi, perché quell'area è una delle aree di accesso della cocaina in Europa, via Olanda o via Spagna, che poi giunge in Italia. Ma c'è di più: gli stessi investigatori tedeschi nel 2000 segnalavano alle autorità italiane la presenza delle famiglie mafiose di San Luca. Dal 2000 al 2007 non è successo niente, perché la loro legislazione, non avendo il reato di associazione mafiosa, era impedita dal poter intervenire contro quelle famiglie che essi stessi segnalavano come mafiose. La cosa interessante che però lei nota è anche un altro aspetto di come, anche se emigrati, i mafiosi in generale esportino alcune abitudini, siano una certa ritualità, sia una certa tradizione legata a culti religiosi, siano anche alcune localizzazioni geografiche rispetto alla mappa iniziale che ad esempio esisteva a Reggio Calabria. L'hanno fatto come si fa spesso nel territorio calabrese, dove le aree territoriali di competenza delle diverse famiglie mafiose vengono separate dai torrenti e dai fiumi. In effetti i Pelle Votta di Romeo e gli Inirta Strangio, le due grandi famiglie in lotta nella faida, si erano spartite il territorio tedesco utilizzando il Reno. Quando si parla di aree di competenza si parla di controllo del territorio e di attività economiche. Per esempio io documento tutta la rete dei ristoranti e delle pizzerie che i calabresi hanno costruito lì. Questi ristoranti e queste pizzerie non sono luoghi dove si pratica il riciclaggio del denaro, sono anche luoghi che servono per assicurare la protezione ai latitanti, per sviluppare altre attività economiche e commerciali, per controllare il territorio laddove l'andrina si è insediata. È sintomatico che nel ristorante da Bruno, il famoso ristorante della strage, c'era un salone attrezzato con le 12 sedie più la 13ª per il capofamiglia per fare le riunioni, e davanti alla porta di questa sala c'era la statua di San Michele Arcangelo, che è il santo protettore dell'andrangheta, e le immagini della Madonna di Polsi. Perché a migliaia e migliaia di chilometri di distanza l'andrangheta ha bisogno di riprodurre riti, simbolismo? Perché deve creare senso di appartenenza, perché ha bisogno di riprodurre un modello culturale, e questa è l'altra faccia della globalizzazione. La stessa cosa avviene in Australia, dove addirittura viene spartito il territorio e si dà vita ad una sorta di cupola, il cui capo però viene indicato sempre nella riunione annuale che l'andrangheta tiene a San Luca. Storielle. Storiacce. 130 miliardi di euro, tanto sarebbe il fatturato annuo di Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta, più del PIL di tre stati europei piccoli. Una ricchezza eccezionale, accumulata grazie ai traffici internazionali, perché i mafiosi non sono più quelli di una volta, gli emigranti con la valigia di cartone, ma quelli con la 24 ore piena di dollari. Così fece mettere a verbale il pentito Antonino Giuffrè. E seguendo i soldi, come seguendo le storie dei 222 latitanti arrestati negli ultimi 9 anni all'estero, o le tracce dei carichi di droga o della merce merce contraffatta, Francesco Forgione traccia il primo atlante della diffusione internazionale delle mafie italiane, con tanto di mappe, atti e storie, come quella del peschereccio Atlantide che impediva la pesca del tonno in certe acque. Ma dai boschi dell'Aspromonte o dai paesini della campagna siciliana, emigrando, le mafie hanno esportato anche le loro regole e i loro riti. E anche questo racconta l'ex presidente della Commissione parlamentare antimafia in Mafia Export. Ci sono delle ragioni storiche per cui la camorra tende più verso la penisola iberica e l'andrangheta insediamenti verso il Sud America, la Germania o ancora verso l'Australia? Sono legati ai flussi dei vecchi emigranti o a quali sono le origini che hanno portato a orientare queste partenze? Ma guardi, storicamente gli insediamenti nascono con i grandi flussi di migrazione. Nel Belgio e nell'Olanda si arriva negli anni in cui i calabresi, i siciliani, i pugliesi partivano per andare a lavorare in miniera, lo stesso in Germania, la stessa cosa avviene per esempio con il Canada e con l'Australia. Dopo l'alluvione che colpì Platini negli anni 50, un sacco di gente di Platini partì per andare in Australia e lì si insediò un radicamento mafioso. Per quanto riguarda la camorra ha usato altre opportunità, non essendo una mafia strutturata come potrebbe essere Cosa Nostra o l'Andrangheta, ha privilegiato sempre le opportunità che le legislazioni diverse offrivano, per esempio per gestire facilmente delle latitanze. Quasi tutti i camorristi hanno passato un periodo di latitanza in Spagna e poi ha utilizzato le opportunità che offrono i porti e i mercati, avendo lavorato molto prima col contrabbando delle sigarette, poi con la grande gestione delle reti dei magliari, trasformando i magliari, i vecchi venditori ambulanti, in vere e proprie reti commerciali per la gestione delle merci contraffatte. Io racconto come l'alleanza di Secondigliano ha creato una vera e propria rete commerciale parallela, dai Trapani Bosch alla microelettronica, dal Made in Italy contraffatto alle macchine fotografiche. Tutti i prodotti che arrivano dalla Cina o da Hong Kong, penso alla microelettronica o ai Trapani Bosch, altri fabbricati, penso ai capi di abbigliamento, i falsi marchi taroccati del Made in Italy, fabbricati tutti nei laboratori della camorra, del napoletano, dell'Interland del napoletano, tutti messi poi con una rete commerciale, per cui questi negozi si trovano nel cuore di Madrid, nel cuore di Barcellona, a Berlino, a Francoforte, a Parigi, a Londra, a Dublino, a L'Avana, oppure in Brasile o in Canada o ad Anversa. Insomma, siamo di fronte ad una rete di mercati. Ecco, la camorra si è proiettata sui mercati piuttosto che sul grande traffico della cocaina, cosa che fa comunque, del quale il vero broker internazionale rimane l'Andrangheta. Faccia capire questo aspetto qui, che vuol dire che rispetto a questi prodotti dai Trapani ai capi contraffatti, la camorra funge da intermediario nel rivenderli nei grandi mercati? Sì, certo, la camorra è, diciamo, una grande holding, una grande holding economico-finanziaria, una grande multinazionale, acquista prodotti dalla Cina, da Hong Kong e li rimette sul mercato con i propri marchi, oppure li fabbrica direttamente nel caso dell'abbigliamento contraffatto, delle giacche di pelle, dei vari marchi Made in Italy, e crea una rete commerciale che gestisce direttamente con propri uomini in questi paesi, per cui i titolari, nel libro lei troverà i nomi e i cognomi di chi gestisce i negozi da Madrid a Berlino a Toronto, e gestisce direttamente questa rete che serve anche per ripulire i soldi che poi rientrano e ritornano tutti direttamente a Napoli, quindi una grande dimensione globale mutuata dal carattere assunto dalle imprese nell'era della globalizzazione. Ecco, la capacità che hanno avuto le organizzazioni criminali è di non limitare la gestione dei propri finanziamenti per rigenerare semplici attività criminali, ma per immetterli nell'economia legale. A proposito di storie, tra le tante raccontate c'è anche quella di Giuseppe Coluccio, della sua Ferrari, sì, della sua Range Rover, della Maserati e anche della sua nave Atlantide. Qual è? Questa è una storia che proprio dà l'idea di questa dimensione globale e moderna e arcaica. I Coluccio sono due fratelli di Siderno, la sede, diciamo, di questa holding rimane Siderno, il consiglio di amministrazione sta a Toronto. Quando si arresta Coluccio a Toronto lo si trova in un mega attico con vista sul lago Ontario, lui scorazzava a Toronto con una Ferrari, una Maserati, una Land Rover, era proprietario di attività commerciali, di una rete di distribuzione alimentare, gestiva partite di droga solo se superiore a 2-3 quintali, lui comprava grandi partite, metteva assieme i compratori, ma appunto faceva il grande mediatore nella gestione della cocaina dai colombiani, dai boliviani. Quando lo arrestano prende le redini in mano il fratello, che invece vive a Siderno. Al fratello che vive a Siderno dove lo trovano quando i carabinieri lo scovano dopo anni di ricerche? Lo trovano in una intercapedine di 2 metri per 4, dietro una parete mobile tipo Diabolic, con una libreria, si muoveva con un meccanismo meccanico, in 2 metri per 2, senza un punto di luce e un punto di aria, e però da lì lui esercitava il comando. Perché questo? Perché nella dimensione globale la mafia, l'andrangheta, ha bisogno di quel carattere di holding economica finanziaria sul proprio territorio, quella ricchezza non va esibita, non bisogna avere l'attico, ma bisogna esercitare il potere di controllo sulla società, sull'economia, sulla politica. Ecco la doppia dimensione in un'unica famiglia. Il peschereccio Atlantide, che stava nella zona ionica, impediva a tutte le marinerie della Sicilia di andare a pescare nelle acque dello Ionio Calabrese, perché tutte quelle acque avevano una sorta di extraterritorialità, dovevano essere gestite da quella famiglia. In effetti questa extraterritorialità non serviva solo a controllare il mercato del pesce, e che la droga che partiva dal Canada arrivava con le navi in un punto specifico di quelle acque dello Ionio in provincia di Reggio Calabria, e lì non ci doveva essere nessuno a poter disturbare quegli arrivi, quegli sbarchi e quei trasbordi che avvenivano quasi sempre di notte, individuando, come si dice, un punto mare specifico che veniva concordato in precedenza. Lei chiude il suo saggio con il lungo elenco dei 222 latitanti arrestati dal gennaio del 2000 fino a luglio del 2009 all'estero. Di recente ci sono stati una serie di arresti di latitanti e di boss anche celebri in Italia. Qual è storicamente, alla luce anche della sua esperienza alla guida della Commissione Antimafia, le ragioni che portano alcuni boss, alcuni latitanti a decidere di svolgere, di passare la propria latitanza sul territorio per conservare la presa sul territorio, e altri che invece possono permettersi di andar via e quindi essere arrestati all'estero? Per un boss, soprattutto di Cosa Nostra, stare sul proprio territorio vuol dire non abdicare alla funzione di comando. Cosa Nostra ancora è fedele a queste regole prevalentemente, infatti è minore il numero di boss di Cosa Nostra arrestati all'estero rispetto a quello delle altre organizzazioni criminali. E tra l'altro io racconto la storia di Nicchi, che è stato arrestato proprio qualche giorno fa, dei suoi viaggi in America, del tentativo di ricostruire un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti e con le famiglie americane, la famiglia Gambino, proprio perché ormai Cosa Nostra aveva avvertito negli ultimi anni una perdita di peso sugli scenari internazionali. Dall'altro invece i boss dell'Andrangheta e della Camorra hanno come dimensione il mondo, soprattutto l'Andrangheta, e quindi per loro la presenza sul territorio è importante quanto è importante la presenza nei territori dove loro hanno un proprio insediamento, non hanno un limite territoriale. Per quanto riguarda la Camorra, molti vengono arrestati in Spagna perché la Spagna ha una legislazione che consente, diciamo, una vita abbastanza tranquilla. Addirittura nel carcere spagnolo, io mutuando una vecchia espressione, Grand Hotel Lucerdone, che veniva riferito ai vecchi boss della mafia siciliana che nel Lucerdone facevano feste, festini con champagne e ostriche, esatto, e cannoli. E Valdemoro, il carcere di Madrid, è più o meno la stessa cosa. Racconto alcune intercettazioni nel libro dove i camorristi dicono: da dentro il carcere telefonano e dicono: qui è una pacchia, possiamo telefonare, possiamo fare tutte le visite che vogliamo, possiamo vedere anche le nostre donne. Ovviamente questo che problema pone? Un problema di costruire almeno un diritto penale minimo su scala europea, strumenti investigativi comuni, il reato di associazione mafiosa prevista in tutti i paesi europei e la stessa legislazione di aggressione ai patrimoni, ai beni, alle ricchezze dei mafiosi su scala europea. Proprio la dimensione internazionale ci dice che il tema dell'economia è quello centrale per le mafie e noi da lì dobbiamo partire.